You've already heard a destra and a sinistra. A variation of those phrases is sulla destra, on the right, and sulla sinistra, on the left. Listen to them both again and repeat. Sulla destra. Sulla sinistra. Another useful word is là. There. Là. This small word is especially useful if you want to point something out. Per esempio, scusi signora, dov'è il museo? Where's the museum? Il museo è là. It's there. Finally, you've heard the question. È lontano? Is it far? You can answer this question in different ways. No, non è lontano. No, it's not far. Or? Sì, è piuttosto lontano. Yes, it's quite far. Ascolti di nuovo e ripeta. Non è lontano. È piuttosto lontano. In a moment you can hear some more dialogues involving directions. But first, a reminder of five verbs that are very useful when giving or receiving directions. They are continuare, to continue, girare, to turn, attraversare, to cross, prendere, to take, and finally the very irregular verb andare, to go.